Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Ma andremo avanti fino alle ore 21:30, ma prima partiamo con la sigla di inizio trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da Udine, dagli studi di Radio Onde Furlane. Oggi 3 ottobre, andremo avanti come sempre fino alle ore 21:30. Ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E andiamo ora all'ascolto di questo album, c'è un LP split, dove ovviamente split vuol dire che insomma più di un gruppo, come quasi il 99% di tutti gli album split sono due le band, una per facciata. Qui abbiamo non so che dire di questa uscita, diciamo, vabbè, facciamo uscire l'ennesimo disco, mi dà l'idea. Sono due le band, noi ascolteremo quelli, gli inglesi Disorder, dove ormai da più di 40 anni, una band che esiste tuttora, è trainata da Taff, il bassista unico, diciamo, superstite di questa band, da almeno 40 anni quasi, se non di, qualcosetta di meno. E poi l'altro lato invece dei belgi, Agathocles, che appunto Agathocles una decina d'anni fa avevano già raggiunto le 400 uscite su dischi e CD vari, e sempre versioni split, anche se ovviamente anche i loro album. Comunque adesso credo sia una delle band più proficue a livello di questo genere punk hardcore, anche se un po' sul thrash metal. Comunque noi ci ascoltiamo i Disorder, direttamente da Bristol, Inghilterra. Lois! Sono dimenticato di aggiungere un piccolo dettaglio, che questo disco è uscito tra il 2016 e il 2017. Go! lavora. Ciao a tutte e tutti voi che ci ascoltate anche da parte mia per questa sera, per questa puntata di Zernis Magnetics, solo per annunciarvi così i temi degli interventi a voce che faremo questa sera. I temi, cioè il tema è lanciato già così nella promozione, sono disertori, disertrici di tutto il mondo, uniamoci. Uno slogan dietro al quale noi faremo degli aggiornamenti sulla questione della rivolta contro la guerra, contro le guerre, sia per il fronte quello europeo che per quello, diciamo, dell'Asia occidentale. Ecco, e poi faremo così anche delle considerazioni sul fatto, appunto, che vengono solito, insomma, questione già affrontata più volte, del legame tra apparati sia industriali sia del dominio qui dove ci troviamo, con questi scontri bellici appunto in regioni insomma un po' distanti da noi, quindi della concretezza della lotta contro, per fermare, per insomma per ribaltare questa situazione. E questo, ecco, per il momento, e poi insomma annessi e connessi, e per il momento lasciamo ancora la linea a un po' di musica. farlo sopra questo brano, o comunque per questa band che si chiamano Safra o Safra, sappiamo. Comunque anche qui ci tenevo al fatto a dire di questa band, perché insomma è una band che canta in arabo. Sappiamo solamente che il disco si chiama Bnat el Medina, forse chissà come si dirà. Comunque è così, è un disco, praticamente non sempre abbiamo tutto, che ci portiamo i vinili o i CD da casa, ma anche andiamo in rete, e questa cosa, questo disco praticamente uscirà il 9 ottobre, quindi è una cosa molto fresca, e in alcuni siti dove si può acquistare o prenotare, ma notizie, sappiamo solamente che sta uscendo per una etichetta tedesca e tutti i titoli eccetera eccetera sono in arabo, e non sappiamo nemmeno da che paese, appunto del Nord Africa eccetera eccetera. Comunque rimaniamo ad ascoltare questi Safra. Ecco, quindi disertori e disertrici di tutto il mondo, uniamoci. Iniziamo questo intervento con la notizia che è stato aperto un blog che si chiama Campi Selvaggi per aggiornamenti su atti di diserzione, rivolta contro la guerra dalle terre di nessuno fin qui. Interessante sapere che le terre di nessuno erano chiamate le steppe pontico-caspiche. Il Ponto è una regione storica, diciamo, del Mar Nero meridionale, sulla costa meridionale del Mar Nero. Il Mar Caspio sapete dov'è. Quelle steppe erano rimaste popolate dai nomadi per tutta, diciamo, l'età, per tutta la, la, diciamo, la, la fase della storia cosciente dell'umanità, fino al XVII secolo, quando l'impero russo cominciò a colonizzare quelle zone per strutturare meglio lo sfruttamento delle risorse, soprattutto minerarie, di quella zona già a quel tempo. Ecco, quindi è un blog fatto in italiano, dove sono raccolte varie notizie di un campo, da un campo come dall'altro, perché premessa di questa nostra, diciamo, interventi di questa serata sono, cioè è, la premessa è il discorso già fatto varie volte da questi microfoni in questo orario, che per noi non esiste nemico, cioè non esiste un fronte, cioè quindi non esistono nemici da una parte del fronte e amici da quell'altra, ma sì, esiste un fronte, ma che non coincide col fronte geografico, e quel fronte lì invece coincide con il confine tra quelli che ci vogliono ridurre in rotelle di un meccanismo e noi altri che ci rifiutiamo di diventare rotelle di questo meccanismo. Quindi massima solidarietà a tutti quelli che si danno per assenti, per disertano, si rivoltano, mancano l'appello di questi signori della guerra. Nel blog sono presenti, ecco, è stato aperto circa metà settembre, sono state caricate le più recenti notizie da quella zona, insomma dal fronte europeo, ecco, dalla guerra che si sta svolgendo sui confini dell'Europa, diciamo così. Secondo me una caratteristica di queste notizie è venire a conoscenza che ad esempio ultimamente, quindi recentemente, perché quella questione lì, quella situazione di guerra è già entrata nel terzo anno, no, di guerra, perché il secondo anniversario è passato, quindi stiamo per arrivare a febbraio, saranno 3 anni. E ormai, appunto, soprattutto dal lato russo, vengono mobilitati i coscritti e vengono inviati, quindi non più i soldati sotto contratto, ovvero professionali, ma appunto questi ragazzi dai 18 fino ai 30 anni, sì, insomma, però ci sono un grosso numero di giovani, insomma, sotto i 20 anni, e vengono mandati anche al di là fuori dalle regole che sono, vorrebbero che si svolgessero 4 mesi di addestramento, ma vengono mandati proprio in seguito all'offensiva di quest'estate su Kursk da parte dell'Ucraina e della NATO. Sono stati per non, appunto, lasciare sguarnito il Donbass, sono stati inviati i ragazzi, appunto, i coscritti su quel fronte lì, in difesa di Kursk. Ecco, poi altre questioni, come vengono represse, appunto, gli episodi sia di rifiuto di tornare in prima linea, sia che ci sono, e sia anche l'episodio di un comandante delle truppe d'assalto che semplicemente ha rilasciato dichiarazioni di pesanti perdite durante un'offensiva nella zona di Kharkov ed è stato fatto prigioniero e, insomma, in uno dei loro sì, delle strutture dell'esercito russo e, insomma, è a quanto pare torturato. Sì, questo l'abbiamo detto, dei coscritti che vengono inviati prima di completare l'addestramento. Inoltre, nelle regioni contigue al fronte, forse chi ci ascolta magari lo sa già, ma comunque ribadiamo che vige il regime, diciamo, di ordine pubblico antiterrorismo, che si chiama CTO, e quindi ci sono tutta una serie di situazioni, appunto, pesanti di repressione. Dal punto di vista invece dell'Ucraina, sì, c'è questo fenomeno che lì addirittura il livello è che c'è carenza di reclute anche da quella parte e le persone vengono reclutate per strada, cioè si fermano le persone per strada e vengono dai vigili anche urbani e vengono portate in questi TCR, centri di reclutamento. Chi abbandona, appunto, l'esercito la prima volta non viene perseguito disciplinarmente, cioè non gli viene fatto, insomma, si fa finta di niente, perché poi se dovessero scattare delle conseguenze, diciamo, disciplinari, questo fatto qua poi comporterebbe la comparsa, diciamo dovrebbe essere messo a verbale, diciamo così, quindi comporterebbe che questa cosa poi verrebbe ufficialmente a galla, quindi meglio ignorare la questione. Però poi vengono riacciuffati e inseriti nelle retrovie, diciamo, a fare servizi di supporto alle truppe, non vengono rimandati a casa, ecco. Ovviamente non si ignora quello che è stato fatto e poi chiaramente se la cosa si ripete ha delle conseguenze invece immediate. Però tuttavia c'è la notizia che un gruppo di donne a Odessa ha effettuato un blocco all'ufficio di arruolamento della città sul Mar Nero. Ci sono delle notizie di mobilitazione che, insomma, siccome scatta in questo momento, ci sarà il secondo scaglione della leva del 2024. Già in aprile erano stati arruolati 150.000 coscritti in Russia e per il secondo scaglione si prevedono 133.000 arruolati che, come detto, dai 18 ai 30 anni possono essere inviati anche in difesa, insomma, in caso di emergenza, in difesa delle zone sotto attacco NATO. La Russia ha dato, è emerso, diciamo, dai media che aumenterà le spese militari fino a 2,8 miliardi di rubli, equivalenti a circa, se non sbaglio, 28 miliardi di euro, poco meno, insomma, e il 6%, oltre il 6% del PIL. Ecco, un'altra questione era sempre in Russia, ultima cosa che volevo dire della Russia, che questa cosa qua appare, appunto, dai canali informali emerge questa roba, non da media, insomma, occidentali, che stia sia intenzionato a mobilitare anche detenuti dietro appunto promessa di indulto, cioè di cancellare la pena, cioè di regolare, diciamo, i conti con la questione della pena. E a fine settembre appunto questa decisione nel Parlamento russo. Questione invece da quest'altra parte del fronte di guerra, è capitato, insomma, un tipo, insomma, un ragazzo era fuggito aveva disertato dall'esercito russo appena scoppiata appunto la guerra, che la viene chiamata in altro modo, in operazione, appunto, operazione speciale. Era fuggito in Norvegia e in questi giorni, insomma, recentemente è arrivata la decisione del tribunale norvegese che non intende concedere l'asilo politico, lo ha negato, quindi viene riconsegnato alla frontiera e da lì verrà per fare una brutta fine, appunto, perché ritornerà ricadrà sotto le grinfie delle autorità russe di Putin. Ovviamente sottinteso che questa cosa non succede, viceversa, per chi diserta dalla chiamata, insomma, si dichiara appunto proveniente dall'Ucraina e viene accolto, no? Sia in Ungheria sia nei paesi della scandinavi. Boh, per il momento questo, poi adesso mettiamo altre canzoni e poi ritorniamo con cambiando, insomma, un po' scenario. E ci stiamo ascoltando questa band statunitense, loro sono i Wild Mohicans, band dell'area di Portland nell'Oregon, e questo è il loro unico album datato 2015 che si chiama Get Me Out of This Hell. Red rockets jumping in the blood, which never got fit to judge. When the preacher's on a day, straight through the heart of the trains. They try to ring, when the preacher's on a day. Ignorance is the deal. They burn. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Eccoci di nuovo qui in voce per ancora un contributo su disertori e chi si rivolta contro le guerre. Vi ricordo che siete in ascolto di Zardins Magnetics, sui ospiti di Radio De Furlane, che trasmette sui 90 MHz nell'etere friulano, mentre in streaming è raggiungibile anche al di fuori di questo etere, se ci state ascoltando in diretta in streaming, e inoltre è disponibile per ascoltare anche in differita, in podcast. Ultima cosa, ma è importante anche questa, di solito viene rimbalzato anche da Radiazione, una web radio di compagni comunisti. Allora, per concludere il discorso su Campi Selvaggi, importante iniziativa, perché appunto raccoglie tutti questi aggiornamenti, li traduce in italiano, li rende disponibili e quindi offre uno sguardo, una speranza, diciamo, sulla possibilità concreta di disertare, di ribellarsi, di essere appunto sostenuti da una rete solidale anche per questi soldati, sia dell'uno che dell'altro campo, che decidono di non di gettare, insomma, di rigettare gli ordini che gli vengono dati. Ultima considerazione contenuta anche tra le altre cose in questo blog, un inciso che di solito però nei media, appunto, e lo faccio, gli diamo importanza perché nei media italiani non si sente, è che dopo la dichiarazione di guerra alla Russia da parte del Parlamento europeo, una cosa recente di qualche settimana fa, il governo italiano si è espresso sull'utilizzo di armi italiane sul territorio russo con un'ennesima presa in giro. Come sapete, il governo italiano ha una maggioranza che non coincide con la maggioranza del Parlamento europeo, quindi ci sono queste manfrine. Ma evidentemente, perché manfrine? Perché comunque l'Italia è un alleato militare di tutti questi, è sotto la NATO, e quindi si possono solo fare queste, diciamo, cialtronate, ma non, la sostanza non cambia. Secondo la Presidente del Consiglio Meloni, se anche i paesi della NATO dovessero accordare al governo ucraino di sparare con le loro armi su Mosca, quelle italiane resterebbero vietate. La verità è che non esistono armi difensive italiane, ed inoltre è del tutto neanche non italiane, le armi sono tutte offensive, chiaro, no? Ed inoltre è del tutto impossibile sapere alcunché non solo dell'utilizzo ma anche dell'entità dell'invio di armi italiane all'Ucraina, dal momento che i diversi governi che si sono succeduti a partire da quello di Mario Draghi hanno deciso di secretare queste decisioni prese via decreto, cioè è sotto segreto militare, non può essere non solo discusso in Parlamento ma neanche cioè non solo reso pubblico ma neanche discusso in Parlamento, capito? Quindi è inutile, è del tutto inutile sostenere appunto che le forniture da parte dell'industria bellica italiana sono limitate e appunto consistono solo di apparati di difesa, eccetera eccetera. Passiamo a un'altra questione molto simile, perché dal blog di Antonio Mazzeo si viene ricostruita in maniera, come sempre, puntigliosa, anche a livelli esasperati, come appunto è possibile che Leonardo abbia guadagnato 440 milioni di dollari con la fornitura di questi cannoni super rapido, cannoni per incrociatori navali, e però la questione non risulta, cioè è negata dal governo, il governo nega, anzi nel governo c'è silenzio tombale, mentre invece Leonardo nega che ci sia impiego in questo o in altri teatri di guerra da parte sua. Perché? Qual è il segreto di Pulcinella? Titolo dell'articolo che trovate sul blog di Antonio Mazzeo: dall'Italia a Israele passando per gli USA, le armi di Leonardo consegnate a Tel Aviv. Appunto, prima sono state fornite a una, come si chiama, a una affiliata, a una consorella, diciamo, di Leonardo, che ha sede negli Stati Uniti, particolarmente in Florida, e poi da lì sono state consegnate allo Stato di Israele, sia all'esercito, insomma, alle forze armate israeliane. Vi leggo dei pezzi da questo articolo, che è dell'11 settembre scorso. Allora, quanto ha fatturato Leonardo S.p.A. con i cannoni utilizzati dall'unità della Marina Militare israeliana per bombardare ininterrottamente il 7 ottobre Gaza e il suo porto? 440 milioni di dollari, uno dei maggiori affari mai realizzati dalla holding, regina del complesso militare industriale italiano. Gli strumenti di morte in questione sono i cannoni navali 76 super rapido, in grado di sparare fino a 120 colpi al minuto, prodotti nei stabilimenti della controllata Otto Melara di La Spezia, andati ad armare le nuove corvette della classe Sa'ar 6 realizzate dalla ThyssenKrupp Marine Systems e impiegate in questi mesi da Israele per attaccare via mare la striscia. Allora, Nonostante siano state prodotte innumerevoli testimonianze ufficiali, video e fotografiche sull'uso massiccio dei sistemi bellici prodotti in Italia durante la campagna genocida israeliana, Leonardo ha negato il loro impiego in questo e in altri teatri di guerra, silenzio tombale da parte del governo in carica o di quelle forze politiche alla guida del paese negli anni precedenti, vedi governo Draghi. Tra le autorizzazioni concesse all'esportazione di armi da Israele non c'è traccia della commessa dei super rapido. Ma allora, com'è stato possibile far arrivare i cannoni navali alla marina militare israeliana? Allora, Pagine Esteri, che è un periodico, mi sembra, online, Pagine Esteri ha sgarfato e ha recuperato e rinvenuto negli archivi open del Pentagono delle transazioni. Leonardo ha offerto i sistemi di guerra a Israele, Israele ha chiesto di acquistarli dal governo degli Stati Uniti d'America, Washington li ha comprati dal gruppo italiano, Leonardo, e li ha dirottati a Tel Aviv, che poi li impiegherà nella carneficina contro Gaza e i palestinesi. Ecco, ricostruisce, quindi si parte dal 4 agosto 2016, sempre ovviamente articoli giornalistici del settore, quindi defensenews.com rivelava che la Marina Militare aveva avviato un negoziato con US Navy per ricevere cannoni da 76 mm a fuoco rapido dall'industria italiana Contractor Otto Melara, una sussidiaria di Leonardo Finmeccanica. Nel reportage venivano riportate dichiarazioni favorevoli da parte di alcuni ufficiali della Marina israeliana. Ecco qua, questo ve lo leggo: a sponsorizzare la commessa dei cannoni navali a Israele i manager USA di Leonardo. Il 76-62 super rapido è l'unico cannone navale multimissione di medio calibro al mondo, con una capacità di fuoco sostenuto, una richiesta fondamentale in ogni scenario, che prevede l'ingaggio simultaneo contro bersagli di manovra multipli, dichiarava con malcelata enfasi a defensenews.com Stephen Bryan, già presidente di Finmeccanica Leonardo North America, nonché ex vice sottosegretario alla difesa e capo del Jewish Institute for National Security Affairs di Washington. Un sistema così accurato consentirà a Israele di rispondere contro un ampio spettro di minacce, incluso il missile C-802 che ha colpito l'unità della guerra della Marina israeliana durante la guerra in Libano del 2006. Secondo Mr. Bryan, il cannone Otto Melara sarebbe stato il sistema ideale per ogni futuro confronto con l'Iran. Quindi si arriva al 17, la transazione veniva confermata da una nota dalla Defense Security Cooperation Agency, l'agenzia di cooperazione e sicurezza del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Ministero della Difesa praticamente. Il governo di Israele ha richiesto la possibile vendita di 13 cannoni navali da 76 mm, la commessa include pure i ricambi di bordo per supportarne l'operatività e la manutenzione preventiva. Questa è la dichiarazione sempre del come si chiama? Dipartimento della Difesa, sì, di questa Defense Security Cooperation Agency. La strumentazione speciale necessaria per la manutenzione, le attrezzature per lo stoccaggio, il trasporto e i test, i manuali tecnici, altre pubblicazioni e documentazioni, gli ingegneri, i tecnici del governo USA e della società Contractor e i servizi di supporto logistici. L'installazione e la messa in funzione e i test dei sistemi a bordo delle unità navali, le attività di addestramento del personale predisposto alla manutenzione, altri servizi di supporto correlati. Ma in particolare si specificava che relativamente ai costi 400 milioni di dollari sarebbero andati a coprire il valore dei cannoni, mentre i restanti 40 milioni di dollari erano destinati ai servizi di supporto, test e manutenzione. Qua sono altri dettagli, ripetizioni, supporto a multiple missioni, sia che esse si trovino in mare aperto o in rada, difesa navale, superficie aria, e superficie superficie o modalità di attacco. Esso può essere impiegato per bombardamenti in mare superficie o per il fuoco d'artiglieria offshore a supporto delle truppe terrestri. Alcune delle tipologie di munizioni sono a guida laser GPS, non comprese in quell'accordo del 2017. Il sistema navale è dotato di Digital Control Console, che può essere utilizzato congiuntamente ai sistemi di controllo di fuoco e gestione del combattimento, altri dettagli tecnici però che non erano previsti in quella vendita iniziale. Ok. Settembre 2022, Leonardo ha reso nota la consegna ai primi cannoni super rapido e il loro allestimento a bordo della corvetta INS Oz della classe Magensar 6, che abbiamo già detto prima. Sempre ricavate da stampa di settore le notizie. La consegna di super rapido era anche la ghiotta occasione per proporre all'acquirente dei cannoni pure le munizioni di produzione Leonardo. In comparazione, chi è che parla? Questo è il manager del gruppo. In comparazione con i sistemi di difesa navale attualmente disponibili, il super rapido garantisce la massima flessibilità operativa grazie alla sua capacità di integrare e sparare tutti i tipi di munizioni convenzionali che possono essere acquisiti nel mercato. È in grado di sparare i Sapomer di Leonardo, l'unica munizione convenzionale che può coprire un raggio di 20 km, e anche le nuove munizioni guidate Vulcano, che permettono l'ingaggio di un bersaglio fino a 35 km. Le Vulcano possono essere anche equipaggiate con l'ultima generazione di Seekers, raggi infrarossi e laser, che ha semiattivi, che accrescono ulteriormente la precisione eliminando il margine di errore, riducendo i rischi anche negli ambienti più complessi. Il super rapido è il solo sistema in grado di sparare con questi tipi, due tipi di munizioni. Va detto, conclusa la citazione dei manager, va detto che una delle aziende leader del comparto militare industriale israeliano, Elbit Systems, promuove dal suo sito internet il 76 mm High Explosive, progettato per fornire effetti di esplosione e frammentazione contro bersagli di superficie e navi aeree, che può essere sparato da tutti i tipi di cannoni navali 8 Melara da 76 mm. Va bene, e un attimo di pausa, che sennò qui facciamo tipo Radio Radicale. Somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. We'll be right back. Stiamo ascoltando questa band della Repubblica Dominicana, che comunque è una band che esiste dall'inizio dell'anno 2000, anche se poi si è trasferita nel 2008 in Stati Uniti, in quel di Chicago. Comunque questo loro album, che si chiama Anticolonial, ed è datato 2022. better word. Ecco, ancora qui è Zardins Magnetics in diretta questo giovedì 3 ottobre 2024. Con questa, proseguiamo con questa notizia di qualche settimana fa, appunto sul blog di Antonio Mazzeo, esperto insomma in questioni di antimilitarismo, segue appunto tutta la stampa, tutte le pubblicazioni del settore militare. Il titolo era appunto "Dall'Italia a Israele passando per gli USA". A un certo punto emerge, insomma, viene a galla questa notizia che le corvette israeliane hanno utilizzato equipaggiate con cannoni della 8 Melara, li hanno utilizzati nelle operazioni appunto genocidarie di subito dopo il 7 ottobre nella striscia di Gaza, da varie fonti che saltiamo per arrivare al dicembre, perché si tratta appunto, la notizia viene approfondita da un'inchiesta da una delle riviste più lette negli Stati Uniti, cioè Forbes. Il periodico si soffermava in particolare su un video fornito il giorno precedente, ovvero 5 dicembre 2023, dalle forze armate israeliane, in cui faceva bella mostra di sé un'unità della classe SAR 6 che colpiva a ripetizione alcuni edifici localizzati nella parte settentrionale della striscia. Il video include fotogrammi di proiettili che volano lontano e che colpiscono obiettivi, il tutto visto dal display del posto di controllo di fuoco. I proiettili esplodono quando impattano sugli edifici, che sembrano essere situati immediatamente lungo la costa, anche se sembrano essere stati colpiti anche alcuni bersagli oltre la spiaggia, riportava Forbes. Secondo quanto dichiarato dallo Stato Maggiore IDF, le forze navali israeliane sono intervenute a supporto delle truppe terrestri con strike su dozzine di target operativi appartenenti ad organizzazioni terroristiche nella striscia di Gaza, aggiungeva il periodico statunitense. In altre immagini del video si vede un'unità di guerra, certamente appartenente alla classe missilistica SAR 4.5, che procede attraverso la costa mediterranea, ripresa in prospettiva da un'altra imbarcazione. Il vessillo, che è sbagliato qua, cioè si intende la nave, possibilmente l'INS Sufa, sembrerebbe sparare a salve da un cannone ospitato a bordo, un 76 mm 8 Melara, progettato e realizzato da un'unità del gruppo eccetera eccetera Leonardo. Più di 50 nazioni utilizzano il cannone 76. E questa conclude la citazione di Forbes. Perché ci soffermiamo su questa questione dei video spettacolari dove appunto vengono inquadrate le sparatorie sugli inermi, sui civili inermi? Perché questo aspetto della spettacolarizzazione non è secondario, anzi ci aiuta a passare all'ultimo, diciamo, ultimo approfondimento di stasera. E si conclude così l'articolo, questo articolo "Dall'Italia a Israele passando per gli Stati Uniti". Cannoni italiani dunque in prima fila a sputare morte contro Gaza e la sua popolazione, il tutto però mediaticamente edulcorato come un innocuo videogioco. Per la cronaca, Israel Defense è pubblicato dal media group Arrow Media Israel Limited, specializzato nella creazione e gestione di siti internet e nell'organizzazione di eventi e fiere. Fondatore ed editorialista della testata militare è l'imprenditore Amir Rappaport, originario della città di Be'er Sheva, deserto del Negev. Contestualmente, amministratore delegato di CyberTech Global, società che promuove in tutto il mondo esposizioni in tema cyber war e cyber security, in collaborazione con Leonardo S.P.A., Cybertech Global ha organizzato al Centro Congressi La Nuvola di Roma Cybertech Europe 2023, a cui hanno partecipato oltre 90 aziende startup attive nel plurimiliardario cyber business provenienti in buona parte da Israele. L'evento si è tenuto proprio pochi giorni prima del 7 ottobre e ovviamente da controffensiva delle forze armate contro i civili della striscia di Gaza, e siamo appunto al giro di boa del primo anno, e questa questo evento, diciamo salone tra salone e festival delle tecnologie cyber, della cyber war, va per insomma si sta per avviare l'edizione di quest'anno, che si svolgerà tra l'8 e il 9 ottobre sempre alla Nuvola a Roma. Altro articolo sempre trovate sul blog di Antonio Mazzeo, che però è un articolo dove sono presenti una estensione mostruosa di elenco di personaggi e di queste aziende, queste startup, che io non avrebbe senso leggere stasera. Comunque per riprendere il discorso, a organizzare la kermesse giunta alla 7ª edizione, la piattaforma di networking Cybertech Global, quartier generale a Tel Aviv, con la collaborazione del gruppo Leonardo S.P.A. Tantissimi gli sponsor. Il complesso militare industriale francese Thales, Google, Cisco, che è un gigante di informatica, anche questa, Arrow, gigante leader statunitense della produzione di componenti elettroniche, aziende produttrici di software e sistemi di sicurezza informatica, la Palo Alto Networks e Sentinel One Inc., l'israeliana Checkpoint Software Technologies, le società italiane DGS SPA e Telsi Elettronica e Telecomunicazioni SPA di Torino, proprietà del gruppo TIM. Dalla brochure, diciamo, veniamo a sapere che al Cybertech Europe 2024 la conferenza e l'esposizione presenteranno soluzioni all'avanguardia provenienti da diverse aziende nel panorama dinamico della cyber security. L'evento è il punto di riferimento per creare connessioni significative, per acquisire conoscenze dai pionieri del settore e per navigare collettivamente nell'intricato futuro cibernetico. Qua è veramente un elenco mostruoso di tutti i partecipanti, di vari manager, vari generali di brigata, colonnelli, responsabili e referenti appunto di unità per la sicurezza tecnologica avanti, che siano dello Stato o che siano dei padroni, appunto del fronte padronale. Forse merita menzionare anche i responsabili del settore cyber security di Rete Ferroviaria, del gruppo Terna, di Italgas, giornalisti della Repubblica, direttori di master di università, ospite d'eccezione assai ingombrante, il noto imprenditore israeliano Yossi Vardi, uno dei pionieri dell'industria di software, internet, telefonia cellulare e tecnologie elettrottiche dello Stato di Israele. Ecco, vabbè, ci fermiamo per riprende il discorso che appunto con cui si concludeva l'altro articolo. Anfitrione di Cybertech Europe 2023 è stato l'imprenditore e giornalista israeliano Amir Rapaport, fondatore e amministratore delegato di Cybertech Global, analista militare di importanti quotidiani periodici nazionali, tra i fondatori del Media Group Arrow Media Israel Limited. Sì, ripetiamo cose che abbiamo già dette, ma insomma erano presenti nell'altro articolo, quale le sviluppo un po'. Grazie ad Amir Rapaport, l'immagine, fanno un encomio, no, questi organizzatori. Grazie a Rapaport, l'immagine di Israele si è affermata come leader globale nel campo della tecnologia e delle cyberconferenze in diverse parti del mondo. E queste conferenze sono il frutto della vigorosa attività di Rapaport. Esse contribuiscono significativamente alla reputazione di Israele quale hub dell'innovazione e della tecnologia, solidificando la posizione della cyber security quale settore guida in Israele. Le conferenze servono quale punto focale di attrazione e incontro per i senior policy makers nel campo della cyber security in ogni paese in cui hanno luogo i suoi eventi. Come possiamo concludere questo discorso? Io direi, appunto, ritornando alla premessa iniziale, veloce premessa iniziale che abbiamo fatto circa un'ora fa, che noi siamo del fronte di quelli che non vogliono. E come noi tanti altri di quelli che non vogliono essere ridotti a rotelle del meccanismo, e come ha detto qualcuno, appunto, è un programma del capitale e del dominio. Nel programma, appunto, c'è l'automatizzazione e l'automatizzazione, cioè far funzionare tutti i corpi nell'assenza, con il massimo della resa, ridurli a rotelle del meccanismo. Tutto il discorso sulla intelligenza artificiale, no, è incardinato su questa questione qua del programma del capitale del dominio, che insomma adesso stasera non approfondiamo, ma che avevamo già così toccato varie volte. In conclusione, vado solo a leggervi, secondo me merita ancora una volta, l'articolo di Simone Weil che si chiama Riflessioni sulla guerra, ecco, e poi ci saluteremo. Sì, penso di farcela. In linea generale, sembra che la storia costringa sempre più qualunque azione politica a scegliere tra il rincrudimento dell'opposizione intollerabile che esercitano gli apparati statali e una lotta senza tregua direttamente volta contro questi apparati per spezzarli. Certo, le difficoltà forse insuperabili che si presentano attualmente possono giustificare l'abbandono puro e semplice della lotta. Ma se non si vuole rinunciare ad agire, bisogna rendersi conto che contro un apparato statale non si può lottare che dall'interno, e in caso di guerra specialmente bisogna scegliere tra l'ostacolare il funzionamento dell'ingranaggio militare di cui si è una ruota oppure aiutare questo ingranaggio a frantumare vite umane. La celebre frase di Liebknecht, il nemico principale è in casa nostra, acquista così tutto il suo significato e si rivela applicabile a tutte le guerre in cui i soldati sono ridotti allo stato di materiale passivo nelle mani di un apparato militare e burocratico. Ciò fino a quando la guerra conserverà la sua tecnica attuale. Finché non troveremo la possibilità di evitare, nell'atto del produrre e del combattere, questo dominio degli apparati sulle masse, qualunque tentativo di rivoluzionario avrà qualche cosa di disperato, già che se noi sappiamo quale sistema di produzione e di combattimento aspiriamo con tutte le nostre forze a distruggere, non si sa qual sistema accettabile possa sostituirlo. E d'altra parte, qualunque tentativo di riforma appare come puerile nei confronti delle necessità cieche implicite nel funzionamento di questo ingranaggio mostruoso. La società presente rassomiglia a una macchina immensa che afferri gli uomini e di cui nessuno conosca le leve di comando. E coloro che si sacrificano al progresso sociale rassomigliano a gente che si aggrappi alle ruote e alle corregge di trasmissione nell'ansia di arrestare la macchina, facendosene a sua volta stritolare. Ma l'impotenza in cui ci si trova a un dato momento non può mai essere considerata come definitiva, non può dispensare dal rimanere fedeli a se stessi, né scusare la capitolazione davanti al nemico, di qualunque maschera si vesta. E sotto tutti i nomi che può assumere, fascismo, democrazia o dittatura del proletariato, il nemico principale resta l'apparato amministrativo, poliziesco e militare, non quello dall'altra parte, che non è nostro nemico se non in quanto è il nemico dei nostri fratelli, ma quello di questa parte che si dice nostro difensore mentre ci rende schiavi. In ogni circostanza, il peggiore dei tradimenti possibili consiste sempre nel sottomettersi a questo apparato e nel calpestare in se stesso e negli altri tutti i valori umani per servirlo. Ultima cosa prima dei saluti, che ci teniamo così a lanciare questo appuntamento, che sarà una presenza solidale giovedì 10 ottobre alle 9:30 davanti al Tribunale di Perugia. Fuori al freddo del 41 bis, giù le mani dalla stampa anarchica. E il 10 ottobre ci sarà udienza preliminare per il procedimento Sibilla. Relativo all'operazione mirata contro il giornale anarchico Vetriolo, nella quale verrà chiesto un rinvio a giudizio per 12 anarchici e anarchiche imputati per 19 capi d'accusa aggravati dalla finalità di terrorismo. E allora ricordiamo appunto che sì, l'operazione Sibilla è stata determinante nel trasferimento in 41 bis di Alfredo Cospito tra i 12 imputati di questo procedimento. Con l'intensa mobilitazione contro il 41 bis nel 22-23 siamo riusciti a evitare che da scritta manent derivassero condanne fino all'ergastolo. Oggi come ieri solidarizziamo con Alfredo. Difendiamo le pubblicazioni anarchiche e sosteniamo l'urgenza della lotta rivoluzionaria, mentre gli stati si attrezzano per la guerra, i profitti per gli armamenti crescono a dismisura, gli organi repressivi si affrettano nuovamente a processare gli anarchici, un nemico interno da debellare perché da sempre in lotta contro lo Stato e contro il capitale. La repressione contro le pubblicazioni anarchiche è parte di politiche di guerra. Il 41 bis è carcere di guerra, quindi ribadiamo giovedì prossimo, 10 ottobre, Tribunale di Perugia per un presidio appunto in solidarietà con i compagni rinviati a giudizio per l'operazione Sibilla. Un saluto e a risentirci la prossima settimana. Mentre lasciamo in sottofondo questa ultima band che ascolteremo stasera, perché siamo ovviamente così al momento dei saluti e varie cose, noi ci stiamo ascoltando appunto questa band, anche questi da Portland, Oregon. Loro sono i The Comp e questo è il loro album Come Down to Earth, datato 2022. Bene, allora abbiamo pochissimo spazio a disposizione, ricordo che questa trasmissione è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21:30, anche oggi diretta, ovvero siamo al giovedì 3 ottobre 2024. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Se volete contattarci basta mandare una mail a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre potete riascoltare questa trasmissione, ma anche quelle delle volte scorse, nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, questo è tutto. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani in replica sulla web radio alle ore 17, Radiazione. Bene, vi lascio con questo ultimo brano dei The Comp, come già detto, band statunitense, il loro album Come Down to Earth del 2022. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.